Non andare, resta qui. Mi dicevi con gli occhi lucidi. Devo andare, mi hai fatto troppo male. Questa volta non ti posso perdonare. Condividevamo lo stesso letto ed ogni mattino sembravi un bambino. Ti stringevi fortemente al mio petto e mi sussurravi di starti vicino. Ancora t'ho dato tutta me stessa, che mi bastava solo un tuo sorriso. Tu che hai mentito solo a te stesso, cosa ti ha dato l'avermi tradito? Ancora, ancora, ma ora me ne vado da sola. Un'altra storia, in un'altra vita. E ancora non voglio soffrire, devo risalire. E ringrazio Dio che mi ha dato il coraggio di il mio cuore no, non lo meriti.